77. Risotto coi pomodori. Riso, grammi 500, burro, grammi 100, parmigiano quanto basta. Versate il riso sul burro strutto e quando l'avrà succhiato, cominciate ad aggiungere acqua calda, poca per volta. Poi, giunto a mezza cottura, dategli sapore con la salsa di pomodoro del numero 125. E prima di levarlo dal fuoco, aggiungete un buon pugno di parmigiano grattato. Nella detta salsa, per condire il risotto, potete, piacendovi, sostituire all'olio la carne secca od anche servirvi del sugo di pomodoro descritto al numero 6.